Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, 16:33, Nova Lab 24, Luca Tremolada, buongiorno Luca Dello Iacovo. Buongiorno. Sembra proprio che in questi giorni nei tribunali italiani si stia in un certo senso, anzi non in un certo senso, si stia riscrivendo il diritto di internet. Parleremo di questo oggi, ma prima le news. Gartner prevede una rapida crescita per le piattaforme di software dedicate ai cellulari. Entro il 2010 gli utenti spenderanno 4,4 miliardi di euro e scaricheranno 4,5 miliardi di applicazioni. Secondo la società di consulenza, 8 software su 10 saranno gratuiti. Gli utenti potranno installarli senza costi. La strada per i negozi di applicazioni su internet è stata aperta da Apple nel 2008 con l'iPhone. Presto l'azienda di Cupertino è stata seguita da altre multinazionali delle telecomunicazioni come la finlandese Nokia e la coreana LG. Le ultime ad annunciare un negozio di software online sono state la libreria Amazon e la taiwanese Acer. Cala la popolazione di anguille nel Tamigi. Gli esemplari sono diminuiti del 98% in 5 anni. La Società Zoologica di Londra esprime preoccupazione. Durante le ricerche sono state trovate soltanto 50 anguille. Un anno fa erano 1500. Secondo i biologi, la riduzione è dovuta all'arrivo di altre specie più competitive nell'ecosistema. La comunità scientifica non ha ancora raggiunto l'accordo sulle abitudini riproduttive delle anguille. Si pensa che le larve impieghino 3 anni per viaggiare dal Mar dei Sargassi ai fiumi dell'Europa. Dopo circa 20 anni, ritornano indietro per deporre le uova. Facebook e MySpace non influenzano le amicizie degli adolescenti. È il risultato di uno studio dell'Università della Virginia. Secondo i ricercatori, i comportamenti su internet non sono differenti dalle interazioni faccia a faccia. Gli adolescenti più abili ad allargare la loro cerchia di amicizie sui social network sono altrettanto capaci di stringere relazioni a scuola. Chi invece ha difficoltà nei rapporti durante l'adolescenza ha una minore propensione ad espandere i suoi contatti su Facebook e in seguito è più esposto a comportamenti negativi, come commenti aggressivi durante le discussioni sui social network. Restiamo in tema. Allora, domani è attesa al Tribunale di Milano la sentenza sul video del ragazzino Down. Ricordiamo, era il 2006, è stato postato su Google Video dei video che ritraevano le angherie perpetrate da quattro studenti ai danni di un ragazzo Down. Domani si capirà se ci sono delle responsabilità nei confronti di Google. Soprattutto si cercherà di capire esattamente, andiamo a vedere nello specifico, se esistono violazione della privacy del piccolo disabile e diffamazione da parte dell'associazione Vivi Down, che insomma è quella che promuove la causa. Ma non solo questo, non c'è solo questo. Pochi giorni fa, esattamente il 16 dicembre, il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza in cui ha chiesto a YouTube di togliere degli spezzoni che riguardavano il Grande Fratello 10, se non sbaglio, per cui insomma un'altra decisione che YouTube ha dovuto togliere gli spezzoni, non ha dovuto pagare nulla, però insomma si è creato in un certo senso un precedente. E dulcis in fundo, anzi no, non c'entra nulla alla fine ma all'inizio, è il decreto Romani, che è un altro tassello. Nel decreto Romani sono state sollevate, tra l'altro anche oggi ci sono delle dichiarazioni, se non sbaglio. Ricordiamo subito che cos'è il decreto Romani. In un certo senso si parificano i siti internet che contengono materiale audiovisivo alle emittenti radiotelevisive. In questo senso vengono assoggettate alla medesima disciplina. È un po' come avere delle televisioni su internet, cioè la televisione su internet viene considerata come una televisione, come un emittente tradizionale. Sì, non solo loro, anche i siti che ospitano video. Insomma, la materia ha sollevato delle perplessità, ha sollevato dei dubbi più che altro interpretativi. Cioè, si vuol capire se io che posto un video dello Iacovo in vacanza, insomma, so essere soggetto alla stessa disciplina di un emittente televisivo. Insomma, adesso l'ho fatto un po' semplice, ma questo è un po' l'oggetto del contendere. E diciamo che è un tipo di... situazione che si sta replicando comunque anche in altri paesi del mondo, perché di fatto non è la prima volta che YouTube va incontro a questo tipo di problema, non è la prima volta che si tenta di limitarne, diciamo, la possibilità di pubblicare video da parte degli utenti, sia censurando l'intero sito, come è successo in alcune nazioni, sia invece censurando poi degli specifici video. Sì, in particolare in Italia ci piace molto il, cioè siamo sembra che insomma qui in Italia c'è molta attenzione, mettiamola così, c'è molta attenzione sul tema di YouTube e degli audiovisivi, e noi vogliamo oggi provare ad affrontarla, insomma, un po' dipanare alcuni nodi, partendo da quello che è l'aspetto più eclatante, cioè l'aspetto della, non tanto della censura, ma della violenza nei social network. Sì, perché ricordiamo anche brevemente l'episodio del 2006, dove appunto poi quattro ragazzi sono stati hanno, diciamo, aggredito un ragazzino down, il video è stato pubblicato su internet, è stato visto da 5.000 persone, dopodiché dopo una segnalazione poi dei mass media. La domanda è: chi è responsabile? Se i siti di hosting, cioè i siti che ospitano questi contenuti, sono responsabili di quello che viene trasmesso. Ricordiamo quanti video ha YouTube? Guarda, 1 miliardo di video al mese vengono scaricati da YouTube, è una cifra impressionante, è la prima piattaforma al mondo di video sharing. Tra l'altro tu hai preparato anche una scheda, ma la sentiamo dopo. E l'altro tema è il fatto anche però il meccanismo mediatico, perché in un certo senso YouTube è lo strumento, il trampolino per la notorietà, è il modo per mettersi in mostra. Ricordiamo le ragazzate, i ragazzi in auto a 200 all'ora che si riprendevano, insomma, mostravano la loro bravura tra virgolette in auto su YouTube, ma ricordiamo anche su Facebook, sito non di condivisione di video, dove però che cosa succede? Appena accade un evento che ha un connotato politico, ha un connotato di cronaca, si va a guardare se ci sono dei gruppi che nascono. E infatti è una finestra sul mondo, Luca, cioè è uno specchio, no, di quello che accade, e ci permette poi di guardare nel mondo quello che succede. Le proteste in Iran, per esempio, così l'hai già giudicato, però, cioè, hai già deciso che essendo una finestra sul mondo hai già emesso un giudizio. Noi invece vogliamo sentire Nicola Iannaccone, psicologo e psicoterapeuta, troppe S, autore di Stop al cyberbullismo. Buongiorno. Anzi, buongiorno, buon a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, quello che volevamo capire è, che meccanismo si instaura tra violenza, espressione della violenza e social network. Allora, intanto i social network altro non sono che un luogo non fisico dove i ragazzi si incontrano e mettono in atto i comportamenti che mettono in atto quando si trovano in luoghi fisici, cioè non è un luogo altro rispetto ai ragazzi, cioè rispetto a chi è nato, quindi ai nativi digitali, come è giusto chiamarli, no? A chi è nato in presenza già di tutta la tecnologia informatica, i social network altro non sono che un'altra piazza nella quale incontrarsi, e quindi i comportamenti sono gli stessi che possiamo trovare nella piazza fisica, nella piazza reale. Si sta dicendo che di fatto non c'è una differenza tra i social network e poi le azioni nel mondo reale, diciamo nella vita quotidiana? Ecco, non c'è una differenza, nel senso che non è che notiamo più comportamenti violenti che poi sono di un certo tipo di social network rispetto alla realtà. Quello che sappiamo dalle ricerche, senz'altro i social network hanno, o meglio, il comunicare attraverso uno schermo, attraverso quindi il PC o il cellulare, abbassa, diciamo, le remore morali, cioè uno ha più coraggio di dire delle cose che vis-à-vis non direbbe. Questo aspetto sì, lo si può riscontrare, quindi c'è una dimensione, diciamo, di maggior immediatezza rispetto a ciò che uno pensa e come lo dice. Questo, ecco, pubblicare anche poi dei video diciamo violenti, in effetti, o che riprendono le persone in atti violenti, è una forma di esibizionismo, oppure chi cerca, chi sfida il pericolo, come prima ricordava Luca, guidando una macchina a 200 all'ora e poi pubblica il suo video su internet. Ma intanto le macchine a 200 all'ora che sono precedenti a Facebook, a YouTube, eccetera, andavano ugualmente, non è che iniziano ad andare a 200 all'ora solo perché si possono riprendere. Anzi, l'aspetto interessante è che alcuni di questi ragazzi che hanno postato dei video riprendendosi mentre andavano quindi in situazioni di non sicurezza sono stati anche riconosciuti e sono stati fermati, quindi da questo punto di vista la rete ha una funzione di far emergere ciò che comunque... Quindi lei non vede una responsabilità di questi luoghi, lei ci sta dicendo il luogo è neutro sostanzialmente, anzi volendo il social network può avere semplicemente l'effetto di accrescere, di essere una vetrina, di in qualche modo spingere all'eccesso determinati comportamenti, ma questo non lo rende un luogo di per sé da regolare o va regolato? Ma diciamo, su questo aspetto io sono per lasciare la libertà che c'è su internet, anche perché è una dimensione che conosciamo poco e quindi regolarla subito avrebbe degli aspetti negativi, sarebbe un po' come se da subito avessero regolato la produzione dei libri stampati, anzi c'è un aneddoto... La neutralità, la fonda neutra, il tema della neutralità della rete. Sì, senz'altro, la rete, anzi da questo punto di vista l'avete detto nelle vostre notizie, nelle vostre news, ma qui lo vedo confermato perché ho acceso il monitor su questa ricerca di alcuni colleghi, Laura Turuani e Matteo Lancini, che hanno verificato su 1200 adolescenti cosa succede in rete rispetto ai ragazzi che sono connessi, che hanno più connessioni su Messenger o via SMS, e quindi ne abbiamo dei ragazzi che tendenzialmente hanno una migliore socialità rispetto a quelli che non utilizzano questi strumenti. C'è una ricorrelazione diretta tra scarsa presenza su Messenger e depressione e ritiro, per cui la rete va lasciata libera. Ecco, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori: 824-0024 349-238-6666, oppure scriveteci a novalab24@radio24.it. Nova Lab 24. 16:47, Nova Lab 24. Ci proviamo a capire in una scheda di Luca Dello Jacopo come funziona YouTube e quali sono i suoi meccanismi. YouTube è la prima piattaforma al mondo per guardare video su internet. Ogni mese i suoi utenti vedono 1 miliardo di filmati. Google ha comprato YouTube nel 2006 per 1,7 miliardi di dollari, ma Eric Schmidt, amministratore delegato della società di Mountain View, ha dichiarato che valeva un terzo, circa 600 milioni. Il più grande archivio di video al mondo non ha ancora trovato un modello di business adatto. Gli annunci pubblicitari restano il principale sistema di remunerazione. E si è allentato il braccio di ferro con le major della musica e del cinema dopo gli accordi per la condivisione dei ricavi. Eppure, 5 anni fa, pochi si sarebbero aspettati un successo planetario. Ormai YouTube ha cloni in Cina, Russia e Giappone. La censura dei filmati, invece, resta un capitolo aperto. In 13 nazioni il portale di video ha subito restrizioni o è stato completamente bloccato. E i suoi filmati, sempre più spesso, diventano testimonianze di cronaca che fanno discutere l'opinione pubblica. Sì, Luca. È appunto come ricordavamo, è un problema che riguarda il mondo intero e che poi si riflette anche sulla cronaca e lo vediamo tutti i giorni. Sì, perché ci sono due aspetti, discutevamo prima, cioè da un lato c'è la libertà, dall'altro c'è il problema di io ti riprendo in un momento particolarmente imbarazzante o insomma violo la tua privacy, lo mando su YouTube e questo non è sicuramente... Quante inchieste poi sono partite dalla cronaca, partendo anche poi da ragazzi che alla fine hanno ripreso le loro compagne, le loro partner, esatto. Il intimi e poi sono partite delle inchieste che si sono estese anche a macchia d'olio. Sì, e poi c'è il lato della denuncia, mi dicevi anche. Sì, il lato della denuncia pubblica è il fatto che per esempio in Russia c'è stato un poliziotto che con un video attraverso YouTube ha denunciato la corruzione poi nelle forze dell'ordine e per questo quindi poi diciamo ha aperto un dibattito dell'opinione pubblica riguardo E la terza gamba di questo tavolo immaginario è il fatto che l'unico dato incontrovertibile di oggi è che i video online, è vero che assorbono il 6% del tempo giornaliero, questa è una ricerca sui teenager americani, ma sono uno dei pochi oggetti della rete che ha crescite esponenziali, per cui aumenta il tempo che noi passiamo su questi video. Sicuramente non è qualche cosa in grado di mettere in pericolo la televisione, i grandi network eccetera, però insomma sono un soggetto che ha un successo di attenzione straordinario. Anche perché vengono anche poi distribuiti attraverso le email, poi vengono condivisi anche molto spesso su Facebook. Pensa per esempio che in Italia il 30% delle persone che sono su Facebook carica video e li condivide con gli amici. Ecco, allora torniamo con Nicola Iannaccone, psicologo e psicoterapeuta, autore di Stop al cyberbullismo. Ecco, Iannaccone, alla luce di questi tre aspetti che rendono insomma questi luoghi di scambio e di pubblicazione di video, quali sono le precauzioni? Cioè, qual è il com'è che ci si dovrebbe confrontare, misurare? Certo, ecco, allora il problema è proprio quello della sicurezza in rete, degli accorgimenti che un genitore dovrebbe insegnare al proprio figlio fin da piccolino, cioè non aspettare che i ragazzi utilizzino il computer che poi o i cellulari che poi hanno molta dimestichezza, ma il genitore in un discorso proprio di educazione, come fa educazione alla mobilità nei centri urbani, spiegando cos'è il semaforo prima che il bambino possa viaggiare da solo, possa camminare da solo e scegliere come utilizzare il semaforo, cioè se rispettarlo oppure no, l'IDE si potrebbe fare con tutte queste nuove tecnologie. Il problema è proprio questo, che in questa fase i genitori non riescono a svolgere questa funzione educativa, i ragazzi hanno accesso a internet in maniera molto diretta e autonoma e quindi possono trovarsi in situazioni pericolose senza che nessuno gli ha spiegato prima. Ecco, quindi ci sta dicendo che manca un filtro, in effetti, cioè manca qualcuno che spiega ai bambini, soprattutto ai bambini, certo, che cosa succede, quindi come interpretare quello che vedono, come capire quello che vedono. Certo, come capire quello che vedono, quali sono i pericoli e come proteggersi. Dico una battuta: tutti gli adolescenti, tutti i ragazzi sanno che Facebook è proprietario adesso per 70 anni di tutto il materiale che loro mettono, foto e quant'altro che mettono sul social network. Alla domanda se questa cosa li preoccupa, i ragazzi non hanno nessun problema di questo aspetto, cioè non se ne preoccupano. Però non sono così certo che loro ne siano consapevoli di questa cosa, perché in genere poi quando si entra in un servizio internet, è vero che non ci sono statistiche, però in genere quando si entra in un servizio internet non si leggono poi i termini dell'accordo, i termini del servizio. Ma hanno molto presente, questo dicono le ricerche, sul fatto che loro sono rintracciabili sulla rete. Anche questo è un aspetto interessante, cioè loro sanno che rintracciabili non ma non responsabili, che è una piccola differenza, poco. Cioè, secondo me sanno benissimo, anzi so anch'io perché io mi ci metto dentro anche se non sono più adolescente. Io ho la percezione di essere rintracciabile, però forse sul fatto di essere, che ci sia una sorta di responsabilità per quello che dico e quello che faccio, ma... Certo, questo è il compito educativo della società, insomma, cioè aumentare i livelli di responsabilità nei giovani affinché il loro comportamento sia legato a uno stare assieme, a dei rapporti prosociali e al migliorare le nostre relazioni. Quindi il processo di responsabilizzazione è quel processo per il quale poi si decide a che età si guida un motorino, a che età si guida una macchina. Perfetto, grazie Iannaccone. Noi continueremo a parlare insomma del dibattito della regolamentazione di internet, la neutralità della rete, ne parleremo sempre con Luca Dello Iacovo. L'appuntamento però è domani alle 16:30. Arrivederci.